Non si potrà fare kibbutz con lei, aveva mormorato Olga dopo che Barsky se ne fu andato. Non c'è pericolo, l'aveva rassicurata Alex, il quale si chiedeva in che modo la strada dei due fratelli Verdon si fosse potuta incrociare con quella di Isidor Barsky. Poi, dopo un momento, che cosa voleva dire Barsky con il suo pazzo del lago di Tiberiade? Sonia e Olga avevano sorriso. È un giovanotto, un nipote della signora Stern. Ha passato 8 giorni a Parigi l'anno scorso. Prima studiava in Germania. Ora è pescatore, si era messa a raccontare Olga. Pescatore in Palestina, in un kibbutz. Ha mandato delle foto. Era su una barca a vela e il signore e la signora Stern ci hanno invitati tutti per farci vedere le foto. E Barsky era un po' ubriaco e ha scherzato perché il giovanotto era in calzoncini come un bambino e la signora Stern ci è rimasta male. È tutto, aveva finito di raccontare Sonia. E funziona il suo kibbutz? Ah, il signore e la signora Stern non ci hanno detto più niente, non si sa. Deve essere duro il sole, la pesca, quando si viene dal freddo e dai libri, aveva risposto Sonia. Adesso si può mettere fuori il nostro cartoncino? Aveva allora suggerito Sonia. È talmente triste la porta senza niente. È come se non avessimo più documenti, aveva aggiunto Olga. 5 minuti dopo, le 11 lettere della parola cooperativa occupavano tutta la lunghezza di un foglio a righe 6e, tracciate con una grossa matita rossa, affisse come una sfida, restituivano all'appartamento dei Bonet il suo diritto di cittadinanza e conferivano a Sonia e a Olga un'identità nuova di zecca. Fu Zazà, tornando da scuola alle 4, a scoprire per prima il fiammante annuncio. Ascoltando appena le spiegazioni di Sonia e di Olga, era scesa dai Clément per fare i compiti con Josette e incidentalmente aveva annunciato che ormai sua madre e la madre di Maurice non avevano più padroni. Le padrone erano loro. Ginette Clément, un po' sorpresa, per non dire ferita, dal fatto che simili sconvolgimenti sociali si fossero potuti compiere ai piani superiori senza l'arbitraggio e i consigli di Felix, ne aspettava con impazienza il ritorno. Tornò dalle poste verso le 17. Messo al corrente, decise di salire a verificare di persona la fondatezza delle confidenze della ragazzina. Ancor prima di arrivare al pianerottolo, Felix aveva capito tutto. La porta dei Bonet era più eloquente di un volantino, più scarlatta di uno striscione, e fu con il cuore palpitante che suonò. «Bene, benissimo», disse sobriamente Felix. «È un esempio per il quartiere, e quando tutti i lavoratori del mondo avranno capito il vostro esempio, il mondo sarà migliore. Brave! E lunga vita alla cooperativa!» E Felix scese in portineria, dove parlò di Calchos. Dall'Alverniat si parlava di kibbutz. Era stato Barsky a diffondere la notizia. Prima aveva monopolizzato il telefono al banco, chiamando gli studi di Saint-Maurice che davano sempre l'occupato. Barsky si era spazientito come un padrone che chiami l'ufficio e si accorga che il personale occupa troppo a lungo la linea. Seccamente disse: «Mi passi Adrien», alla centralinista, quando finalmente questa gli ebbe risposto. «No». Adrien non si ricordava dei due ragazzi che l'altro giorno erano al bar con la padrona di Fefè e Tata Bubù. Ma se Isidore voleva richiamare più tardi, glielo avrebbe chiesto. «Riproverò fra un quarto d'ora», disse all'Alverniat che gli servì un Amer Picon. In quel momento Barsky scorse il signor Löwenthal attraverso i vetri, lo invitò a bere e raccontò del kibbutz. Il signor Löwenthal non disse niente. Sorrise come al solito, ma appena tornato a casa annunciò il kibbutz alla signora Löwenthal. «Ed è scritto sulla loro porta», si informò la signora Löwenthal. «No, c'è scritto cooperativa», rispose lui. «È peggio», esclamò la signora Löwenthal. «Questa è politica, peggio del sionismo. È politica sionista in Francia, come se ce ne fosse bisogno». Dopo un momento di riflessione soggiunse: «Allora era per questo. La cera!» Avvezzo ai caotici itinerari del pensiero della signora Löwenthal, il signor Löwenthal non fece caso a quella sconcertante riflessione. Nonostante le apparenze, ella alludeva a un fatto ben reale che il martedì o il mercoledì precedente aveva molto turbato le signore Stern e Löwenthal. Scendendo la mattina, la signora Löwenthal aveva sorpreso la signora Stern davanti alla porta dei Bonnet che guardava sotto lo zerbino. Senza dir parola, la signora Stern, che non aveva trovato quello che cercava, aveva additato i 4 piccoli fori lasciati sulla porta dalle puntine che fino a quel giorno prima fissavano il cartoncino maschere bergamaschi. Barsky Bisbigliavano tra loro preoccupate di quella scomparsa, quando la porta si era aperta. Era Olga. «Ve l'hanno rubato?» aveva chiesto la signora Loventhal. «No, è per la cera», aveva farfugliato Olga diventando rossa. Più tardi erano state viste lei e Sonia affaccendate intorno alla loro porta, che avevano lentamente e accuratamente spalmato di cera, poi lasciata impiastricciata e opaca fino a notte. Tutte le scale odoravano di cera. L'indomani si erano riviste con stracci di lana in mano che fregavano, lucidavano lentamente e accuratamente la porta, che per quanto ormai scintillante rimaneva non di meno disperatamente anonima. Le scale continuavano a odorare di cera. Cioè, soprattutto odore di chiusura, si era detta la signora Loventhal. La qualcosa non l'aveva eccessivamente sorpresa. Con quel maleducato di Alex bisognava aspettarsi di tutto. Si comincia con le ballerine di Ciarda e si finisce tra le donnine nude. Fatalmente, gli andirivieni di Lucien, Albertini, Yvette e Magalì avevano risvegliato la curiosità della signora Loventhal. Dopo averle sentite, una sera che se ne andavano scambiando qualche commento rumoroso e particolarmente crudo sul libretto della Lune et Nue, ne aveva tratto le conclusioni su quello che succedeva nel laboratorio, dove non era più ammessa alle ore di prova. Comunque, la signora Loventhal non ne aveva fatto parola con nessuno, soprattutto non con il signor Loventhal, che una sera aveva avuto l'impudenza di notare l'aria sana e giovane di quattro belle ragazze e di un bel gruppo che rincasando aveva incontrato sulla soglia di casa. Ma non aveva saputo resistere alla voglia di interrogare Zazà. «Sono artiste di ginnastica acrobatica», aveva risposto Zazà, secondo quanto era stato convenuto in casa. È proprio quello che pensavo io, aveva allora pensato la signora Loventhal, che in gioventù aveva sentito parlare di orge austro-ungariche condite di quadri viventi. Mica da stupirsi che non sia durato molto quel laboratorio. E quando non si sa più che mettere sulla porta, beh, allora si passa alla cera, il tempo di destreggiarsi. E quando non ci si può destreggiare, per mancanza di datore di lavoro, si fa kibbutz. Kibbutz in ginnastica artistica. «Scendo a vedere», disse la signora Loventhal al signor Loventhal, il quale le segnalò sorridendo che non c'era davvero molto da vedere. Ciò nonostante, la signora Loventhal scese, contemplò il cartello, notò che era veramente incollato, esitò un momento, poi suonò. Nessuno rispose. La signora Loventhal risalì in casa. Anche Sonia e Olga erano risalite in casa. Aspettavano il ritorno dei loro mariti. La voglia di risalire in casa e di aspettarli in cucina, piuttosto che nel laboratorio, gli era venuta dopo la breve visita di Félix Clément. I frizzi di Barschi e le sue variazioni sul tema cooperativa a kibbutz li avevano lasciati indifferenti. In compenso, la loro esemplarità per le classi lavoratrici del ventesimo distretto e il loro mirabile contributo all'edificazione di un mondo migliore, evocati dal postino nel suo breve ma vibrante omaggio, le avevano lasciate pensierose e a onor del vero un tantino inquiete. Non avrebbero mai sospettato che una parola così semplice e bonacciona come cooperativa, pronunciata da Alex Grandi, si sarebbe impregnata di accenti così rivoluzionari quando veniva scandita da Félix Clément. Mentre se ne rendevano conto, si accorgevano ancora una volta di aver preso delle decisioni senza avvertire i loro mariti. Era una volta che rischiava di essere di troppo. Non sapendo come avrebbero preso le cose Stepan ed Elia, decisero di crearsi tutti i presupposti a favore. Calcolarono che se i due uomini si fossero messi a decifrare il loro ingombrante biglietto da visita, era opportuno che avessero il tempo e lo spazio di un piano in più da salire prima di esigere spiegazioni. Risalirono quindi in casa e prepararono i bicchierini di vodka nella cucina di Sonia, come in passato ai tempi in cui erano rifinitrici e non ancora carrossiane. Sul marciapiede della stazione Strasbourg-Saint-Denis, Elia aspettava Stepan davanti alla Saponit, come al solito. Lasciò passare un treno e prese il successivo. Era raro, ma capitava che non si incontrassero. Passando davanti all'Alverniat, vide Barschi, Nussbaum, Novak e Gromov al banco. Barschi faceva dei grandi gesti e tutti ridevano. Elia non aveva nessuna voglia di farsi agganciare. Conosceva il suo Barschi a quell'ora, affrettò il passo. Lo affrettò anche entrando nel portone. Gli era simpatico Felix. La domenica prima di pranzo e dopo il bagno doccia non era contrario a una chiacchierata con lui in compagnia di Stepan, ma durante la settimana, da solo, dopo il lavoro e prima di cena, non gli diceva niente. Si avvicinavano le elezioni. Si era solo in dicembre e non erano previste che per aprile, ma tanto dai fratelli Mercier quanto nella portineria di Rue de la Mare si era già in piena campagna. Dai fratelli Mercier si era perfino già visto arrivare il cugino di Lot, il cugino Martial, il deputato socialista che tanta parte aveva avuto in passato nella naturalizzazione delle famiglie Gutmann e Roginski, come gli aveva ricordato Paul Mercier presentandogli Elia. Il nostro Lilich, aveva precisato battendo sulla spalla di Elia, che di solito chiamava Gutmann. Martial Mercier si ricordava addirittura talmente bene che aveva chiesto notizie dei bambini. Chissà come erano cresciuti da allora. Elia era arrossito. Aveva ammesso che effettivamente erano cresciuti, ma che in realtà si trattava di un bambino Gutmann e di una bambina Roginski. La sua piccola precisazione era andata perduta nell'allegro brusio che salutava la comparsa in laboratorio di un fusto di vino di Cahors portato appositamente dal parlamentare in occasione della sua visita nella capitale. Tutti avevano brindato alla vittoria dei lavoratori e in modo particolare a quella del Partito Socialista. Ne era nata una specie di festicciola e dopo il terzo bicchiere Meunier aveva cantato la Butte Rouge. Poi aveva dichiarato che in ogni modo lui non votava mai, ma che era prontissimo a portare il popol del signor Martial al circo per una volta che gli capitava di essere parigino. L'aneddoto riferito in Rue de la Mare non aveva fatto ridere Felix. Ah, demagogia, suon di vino rosso. Da noi si prendono le cose sul serio, aveva detto scuotendo gravemente il capo. Il da noi, molto usato da Felix, poteva assumere significati diversi e nel corso degli anni Elia e Stepan si erano posti a più riprese la domanda, fino al momento in cui il contenuto del discorso non li metteva definitivamente sulla buona strada. Da noi poteva designare la Savoia o la portineria, o la famiglia o le poste, oppure la cellula del partito o il partito nella sua totalità globale, vale a dire mondiale. Da qualche tempo il da noi di Felix serviva esclusivamente a mettere in evidenza tutto quello che si faceva di male da loro, dai socialisti, e solo dai socialisti. Tutti gli altri erano evocati solo molto di rado e sempre alla rinfusa, sotto un'etichetta comune. Tutti gli altri, Felix li chiamava semplicemente gli altri, senza violenza, ma con un implacabile disprezzo. Ragion per cui da un certo tempo Felix si dava da fare per aprire gli occhi di Elia a forza di da noi. I fratelli e i cugini Mercier, bravi padroni, indiscutibilmente da loro, ai suoi occhi erano molto più dannosi di qualunque padrone tout court e che fosse degli altri. E anche per questo, da un po' di tempo Elia affrettava il passo quando era vicino alla porta a vetri della portineria. Lo affrettò e nello slancio salì due piani a passo di carica. Stava per tirar fuori le chiavi, ma non ebbe il tempo. Sonia gli apriva già la porta e Olga compariva dietro di lei. Si erano tolte i camici da lavoro. Sonia si era messa il suo bel grembiulino a fiori, Olga il camiciotto scozzese. Elia si stupì di trovarle già lì. Loro si stupirono di trovarlo senza Stepan. Erano talmente strane che Elia si chiese se non avesse dimenticato il compleanno di qualcuno. Entrò in cucina dove gli servirono la vodka con la premura di due geishe. Era evidente che avevano qualcosa da dire e ancor più evidente che per farlo aspettavano l'arrivo di Stepan. Le conosceva bene, Elia. Non fece quindi domande e assaporò il suo bicchiere a piccoli sorsi mentre loro si servivano sorridendo il loro mezzo bicchierino. «Ma che fa Stepan?» chiese Olga tanto per dire qualcosa. «Ah, oggi ho finito un po' prima», mentì Elia, che cominciava a rimpiangere di non aver aspettato Stepan sotto la saponite, sapendo quello che lui sapeva e che loro non sapevano. C'erano molte cose che Stepan non riferiva in Rue de la Mare, molte preoccupazioni che lasciava in Rue d'Aboukir, tra le pieghe del camice bianco quando la sera se lo toglieva prima di riporlo nell'armadietto metallico e di andare a ritrovare il suo amico sul marciapiede della stazione Strasbourg-Saint-Denis. E quelle che non era riuscito a lasciare nell'armadietto le confidava a Elia durante il tragitto per sbarazzarsene prima di arrivare a casa. Se gli aneddoti sui fratelli Mercier e cugino suscitavano la severità dottrinale del serissimo Félix, inondavano di bramosia il cuore di Stepan. In Rue d'Aboukir non si cantava, non si rideva né si brindava. Brindare? Non si era mai fatto niente del genere, per chi che sia o che sia. Ridere e canticchiare erano cose d'altri tempi, ormai completamente finite. In Rue d'Aboukir, da un certo tempo, si sussurrava, si discuteva di quisquilli e ci si trattava pesci in faccia come da ogni altra parte in Francia. Alla fine di quell'anno 1935, con una differenza però, e non di poco conto, in Rue d'Aboukir si aveva paura. E perché si aveva paura, ci si trattava pesci in faccia più che da ogni altra parte. E dal momento che nel laboratorio pellicceria, a parte Stepan e due vecchi tagliatori, nessuno era in possesso del tesoro, dell'inestimabile e inaccessibile certificato elettorale, le voci che si innalzavano in Yiddish al colmo delle litigate corrispondevano ad altrettanti voti perduti per le urne che già si stavano lustrando nei comuni francesi. Un vero spreco, perché sarebbero potuti servire quei voti, anche se non difendevano tutti gli stessi interessi. Discordanti e perduti per le urne, quei voti non andavano comunque perduti per tutti quanti, soprattutto non per quelli che orchestravano le loro discordanze. Se in Rue d'Aboukir ci si insultava abbondantemente da quando si era ritrovata la paura, era anche perché vi si leggevano molti giornali. Giornali nuovi che avevano appunto cominciato a comparire mentre ricompariva la paura. Venivano tutti stampati in Yiddish, ma non tutti dicevano la stessa cosa sulle stesse cose. Dalla loro lettura nascevano i disaccordi e dai disaccordi i litigi. E i litigi vertevano sempre sullo stesso soggetto, quello per cui erano tornati lo scandalo, la sventura e la paura. Tornati nei fagotti degli ultimi arrivati, i tedeschi, quegli sconosciuti mai incontrati sulle vie dell'esodo, più tedeschi che ebrei, si diceva, ma che con la loro sola presenza erano riusciti a riportare alla moda la vecchia formula infamante, quella che tutti i vecchi migranti si erano rifiutati di subire nei loro ex paesi, tanto da fuggirli per trovarne uno nuovo in cui avesse corso, non avesse corso. Da quando erano arrivati gli ebrei di Germania, venivano sempre chiamati gli ebrei tedeschi, mai i tedeschi ebrei. E nei giornali che circolavano in Rue d'Aboukir non si parlava che di loro, ad altri ebrei, che se anche non erano diventati cittadini francesi, non per questo avevano la benché minima voglia di tornare ad essere ebrei polacchi, ebrei rumeni, ebrei cecoslovacchi. Ma era questo che suggerivano certi articoli in nome di un giudaismo internazionale di cui a loro sfuggivano i riti e gli obiettivi. Non a tutti, peraltro. Mentre gli altri giornali che circolavano in Rue d'Aboukir e in cui si parlava non meno degli ebrei tedeschi, si suggeriva agli stessi polacchi, rumeni e cecoslovacchi ebrei di raggrupparsi in nome di un proletariato internazionale del quale anche questa volta non conoscevano i riti, ma i cui obiettivi non gli sfuggivano del tutto. Comunque non a taluni, ma qualunque cosa si suggerisse loro di fare, si suggeriva sempre di farlo a gruppi, gruppi ebrei. E tutte quelle gazzette circolavano di mano in mano in Rue d'Aboukir tutte le mattine. O meglio, erano circolate perché da un certo tempo venivano imboscate. Venivano imboscate dal giorno in cui al signor Jean era capitato sotto gli occhi un numero di Neue Presse in cui, per esortare più efficacemente i lavoratori ebrei immigrati a organizzarsi per la difesa dei loro diritti e dei loro salari, venivano citati ad esempio quelli di certe aziende. E Neue Presse dava la lista delle ditte di confezione per uomo dove già da ottobre si erano dichiarati degli scioperi. Le conoscevano quelle ditte che si trovavano tutte nel quartiere. Avevano anche saputo che c'erano degli scioperi. Dai vicini se n'era già parlato e ci si era già litigati a proposito di tali scioperi, ma ora era sul giornale. Cessava di essere una storia del quartiere. Allora erano di nuovo passati agli insulti e siccome la cosa aveva fatto un certo rumore, il signor Jean era sceso. Non si vedeva mai il signor Ziegler quando si sbraitava in Yiddish. Quella mattina Stepan aveva letto Neue Presse e la lista come tutti gli altri. L'aveva restituito senza commenti, capiva benissimo, ma si sentiva coinvolto solo la metà. Lavoratore ebreo o straniero lo era stato, lavoratore ed ebreo lo era ancora, straniero non lo era più, lui era francese, e in quanto lavoratore francese era disposto a organizzarsi con altri lavoratori, sia che fossero ebrei o meno, immigrati o meno. Ma era difficile da spiegare con tutto quel rumore, per questo aveva reso Naye presse senza commenti. Quando però aveva visto da lontano Janek afferrare il giornale, leggerlo con calma, ripiegarlo con cura e posarlo di nuovo sul tavolo senza una parola, poi guardarli tutti gli uni dopo gli altri e lui, Stepan, un po' più a lungo degli altri, quella che aveva rivisto era stata l'immagine di se stesso, giovanissimo, con berretto e stivali di cuoio che saltava dal treno ancora in moto. L'aveva sostenuto quello sguardo. Poi, mentre il signor Jean attraversava tutto il laboratorio in un pesante silenzio, prima di risalire negli uffici, ancora una volta si era stupito. Suo fratello ora camminava come il loro padre, come quel loro padre che Janek non aveva mai visto invecchiare, giacché non l'aveva mai rivisto. Durante il tragitto aveva raccontato a Elia quella giornata, non a Olga né a Zazà. E sempre a Elia all'indomani aveva raccontato che ormai c'era un avviso battuto a macchina fisso sui muri dei laboratori, pellicceria e donne e bambina. Era un avvertimento breve ma preciso. Pena l'immediato licenziamento, la lettura è severamente proibita durante le ore di lavoro. Firmato, illeggibile. E questo aveva proprio fatto ridere Elia, perché dai fratelli Mercier tutte le mattine si trovava fisso sul muro le Populaire, con degli articoli incorniciati dalla matita rossa del signor Paul in persona. Era così che Elia aveva potuto leggere tutti i particolari sulla legge che vietava l'ingresso in Francia di nuovi immigrati. Hai fatto bene a venire prestino da noi, Lilic. Ora non potresti più entrare, aveva scherzato Meunier. Ma nessuno nel laboratorio ne aveva più parlato, sicché Elia aveva fatto altrettanto e, come tutti gli altri, aveva riso scoprendo Le Miroir des Sports e Le Journal de Mickey, che un burlone aveva preso l'abitudine di affiggere come pendant al Populaire, per mandare in bestia il signor Paul, che però ne rideva come gli altri. Come per un attimo aveva fatto ridere Stepan nel metrò, ma neanche questo lo aveva raccontato a Olga e a Zazà, perché avrebbe dovuto raccontare tutto dall'inizio, da Naye Presse e anche da prima. Avrebbe dovuto in realtà raccontare la paura, quella paura che non voleva più portare in casa. E Elia trovava che aveva ragione, tanto più che non c'era ragione d'aver paura, aggiungeva tutte le sere durante il tragitto comune, il che rassicurava Stepan, anche se negli occhi e nel sorriso di Elia vedeva che lo diceva per tranquillizzare se stesso. Lo vedeva, ma non glielo diceva. E appena erano in vista della casa, cioè sull'ultimo scalino del metrò Pyrénées, si mettevano a parlare d'altro, delle loro mogli, del tempo, dell'Alverniat, dei figliuoli, di quello che avevano voglia di mangiare a cena. Tornavano a casa nella loro strada, vicini dei loro vicini. Tornavano a casa come facevano tutti i cittadini francesi alla fine della loro giornata di lavoro. E a loro piaceva. Per questo non sopportavano di non trovarsi alla stazione Strasbourg-Saint-Denis. Stepan arrivò correndo sul marciapiede. Sapeva già che non avrebbe trovato Elia. Un quarto d'ora di ritardo era troppo, secondo i loro accordi, ed era veramente triste salendo sul vagone strapieno. Triste e sgomento dopo quello che era successo, che l'aveva fatto ritardare e non poteva raccontare a nessuno. Dal giorno prima si sapeva in tutto Femina Prestige che i padroni erano assenti per un lutto della famiglia Ziegler. La qualcosa aveva fatto uscire nuovamente le gazzette dai loro nascondigli e risalire il tono delle discussioni, oltre a lasciar soffiare una leggera brezza di turbolenza vagamente birichina. Non per una morte di cui nessuno sapeva esattamente chi avesse colpito, ma per l'assenza di coloro che aveva momentaneamente allontanato dal piano superiore. Era una minuscola porzione di paura che era svanita e Stepan l'aveva avvertito come tutti gli altri nel laboratorio. L'aveva detto anche a Elia tornando a casa il giorno prima. Poi, quella mattina, c'era stato il volantino. Era un volantino i cui esemplari a centinaia erano atterrati come per incantesimo negli atri, per le scale, sui tavoli di tutti i confezionisti del quartiere. Non era ciclostilato, ma stampato a grossi caratteri neri su fondo giallo e evidentemente destinato a un vasto pubblico, poiché lo stesso testo in Yiddish sul retro era tradotto in francese sul verso, a meno che non fosse il contrario. Niente, infatti, nel suo contenuto indicava a quale delle due culture appartenesse originariamente, e neanche nella sua impaginazione era completamente anonimo. Diceva così: Lavoratori ebrei tedeschi, uscite dall'ombra, non siate più clandestini, non lavorate più di notte sotto costo nelle vostre camere ammobiliate, mentre i vostri compagni lottano alla luce del sole per ottenere salari e orari decenti dai loro padroni ebrei. I padroni ebrei che vi sfruttano sono gli alleati di Hitler che vi ha cacciato. Pensate alle Gallerie Lafayette, la cui direzione ebrea continua a commerciare con il padronato nazista. I padroni ebrei che vi sfruttano sono i fornitori delle Gallerie Lafayette. Lavoratori ebrei naturalizzati francesi, stranieri o apolidi, sta a voi far finire questo scandalo. Ne avete il diritto e il dovere. Raggruppatevi, fatevi sentire. Uscite dall'ombra anche voi. Il tempo dei ghetti è terminato. E terminava con un grosso punto interrogativo finale. Il punto interrogativo era stampato ben più grosso delle parole messe in evidenza, se si può dire che si mettesse qualcuno o qualcosa in evidenza in quello strano appello a una mobilitazione generale. Raramente si era visto un punto interrogativo che adempisse tanto bene le sue funzioni e occupasse un tale spazio. Da solo monopolizzava un quarto della pagina sul retro o sul verso, e sia che si fosse amatore di testi francesi o di testi yiddish, esso saltava agli occhi ancor prima che ci si abbassasse per raccattare quella carta gialla e nera che assomigliava più all'annuncio del fakiro birmano che a un manifesto rivendicativo, a prima vista. Era un punto interrogativo che serviva insieme da aggancio e da conclusione e da firma, da rimessa in discussione, in definitiva. Messo com'era, non solo sottolineava con un grosso dubbio l'ultima frase, che si poteva prendere per un'affermazione, peraltro azzardatamente ottimistica, e cioè il tempo dei ghetti è terminato o il tempo dei ghetti è terminato, ma soprattutto decuplicava le ambiguità di un testo di cui il minimo che si potesse dire è che c'era dentro da bere e da mangiare, come avrebbe detto Felix, che lo diceva spesso. Dato che lo diceva spesso e spesso davanti a Stepan, questi si era affezionato a una locuzione così immaginifica ed era esattamente quella che si accingeva a ripetere ai suoi compagni dopo aver letto il volantino per le scale di Femina Prestige prima di entrare nel laboratorio pellicceria. Se la tenne per sé, l'immagine gli parve troppo debole. La dinamite non si beve né si mangia. La bomba non era ancora esplosa, ma la miccia era accesa, già si sentiva sfrigolare. Dal momento che il rumore tende ad amplificarsi salendo, lo sfrigolio giunse fino al piano superiore, tanto da far scendere la signorina Anita. E fu lei, timida e fragile, ad apparire nel laboratorio al posto dei padroni che invece non erano ancora ricomparsi da 2 giorni che erano spariti. La signorina Anita non aveva né l'autorità, né lo sguardo, né la voce del signor Jean, ciò nonostante la sua comparsa impose il silenzio. Un altro genere di silenzio. Guardi, signorina Anita, le disse Jiří Kustov, il cecoslovacco, tendendole il volantino. Ma scalzoni, mormorò la signorina Anita con la sua vocina dopo aver letto il testo francese. Era la prima volta che la sentivano dire una parola grossa. Ci fu qualche riso imbarazzato. Chi sono i mascalzoni? Domandò una voce che coprì le risate. I cruchi che lavorano gratis o le gallerie che lavorano per gli altri cruchi? Quelli che hanno fatto il volantino, replicò la signorina Anita. Ma noi qui lavoriamo per le Gallerie Lafayette, no? Riprese la stessa voce. Era sempre quella di Jiří, il cecoslovacco, che aveva teso il volantino. La signorina Anita esitò e non rispose. Lei lo deve ben sapere, signorina Anita, se lavoriamo o no per le Gallerie Lafayette. Per qualche articolo. Sì, lavoriamo un po' con le gallerie, fece la signorina Anita arrossendo leggermente. E qualche crucco senza permesso non lo fanno lavorare un po' per Femina Prestige, i nostri padroni che non ci vogliono pagare le ore straordinarie? Era sempre Jiří a parlare. È accaduto, ammise la signorina Anita, quando eravamo in ritardo con le ordinazioni. Allora ha ragione il volantino, esclamò Kiri, contento di aver portato a buon fine la sua dimostrazione. No, fece allora Stepan, che era rimasto in fondo al laboratorio senza dire niente da quando era cominciato quello scambio di battute. Tutti si voltarono. Ha ragione la signorina Anita. Ci sono anche degli italiani, dei greci, degli armeni e un sacco di stranieri profughi che sono senza permesso e che lavorano, e un sacco d'altra gente che ha il permesso e che lavora normalmente per le Gallerie Lafayette e anche per altri padroni, e a loro non gli mandano mica dei volantini in italiano, in greco o in armeno. Ma loro non è la stessa cosa, disse Kiri come se fosse una cosa evidente. Perché? Chiese la signorina Anita. Nessuno rispose. Ci furono dei sospiri davanti a una simile incomprensione. E proprio come diceva, sono stati dei mascalzoni, ma dei mascalzoni molto astuti a fabbricare questa roba, ripeté la signorina Anita piegando con calma il foglio giallo e infilandoselo nella manica del golf grigio sotto il polsino, come si fa con un fazzoletto prezioso che non si vuole perdere. Poiché la parola astuto era del tutto sconosciuta in Rue d'Aboukir, la signorina Anita dovette cercare delle equivalenze per farsi capire meglio. Anche Franz Kafka era sconosciuto, sconosciuto in Rue d'Aboukir come in tutto il mondo, e più particolarmente in quello della signorina Anita. Eppure pareva che fosse lui a ispirarla dall'oltretomba dove riposava già da 12 lunghi anni. Tanto sembrava sottile l'analisi della signorina Anita sulla logica dei lanciatori del volantino e l'alchimia che ne faceva una bomba. Aveva l'aria molto complicata. In realtà era una cosa semplicissima, pur essendo molto scura. La signorina Anita capiva le cose in questo modo. Vengono riuniti dei capri espiatori di ogni tradizione. Per questi capri espiatori di tipo tradizionale si selezionano altri capri espiatori che si propone ai primi di sbranare. Ciò crea un diversivo, ma poiché si è avuto cura di selezionare i nuovi capri espiatori all'interno del loro stesso identico gregge e di lasciarli liberi in uno stesso identico recinto, si ottiene un agglomerato di capri espiatori che si divorano fra loro e che ovviamente fanno molto rumore. E dato che fanno molto rumore, finiscono per farsi notare. Si sentono molto, cominciano a mormorare quelli che per un certo tempo li avevano dimenticati a forza di non sentirli più. Non si sente più che loro, volete dire, possono proclamare coloro che non li avevano mai dimenticati, anche quando se ne stavano silenziosi. E non soltanto ormai si sentono solo loro, ma guardate come si divorano tra loro. Il che peraltro non impedisce che divorino insieme nello stesso momento la buona erba dei nostri pascoli, la buona lana a spese delle nostre pecore, precisano compiaciuti coloro che non li avevano mai dimenticati e che tenevano in serbo le loro scorte erranti di capri espiatori che hanno finalmente raggruppato per farne un grande gregge di pecore rognose. La bomba è quasi pronta. Non resta più che da denunciare il chiuso. È qui appunto che converrà mostrarsi astuti. Si denuncerà il chiuso deplorando che esista, ma osservando che alle pecore rognose non dispiace starvi, ciò eviterà di indicare chi ne ha tracciato i confini, chi ne tiene la chiave, chi lo può serrare. Si potrà allora disserrarlo se si ritiene utile far sfilare le pecore rognose, il cui gregge sarà allora talmente appariscente, talmente chiassoso da far dire a tutti quanti che nel chiuso c'era decisamente del buono. La signorina Anita non ricorse a quelle campestre allegorie per disinnescare il lavoro degli artificieri, esattamente come aveva fatto Stepan per il bere e il mangiare, se le tenne per sé, tanto più che l'evocazione di tutti quegli animali barbuti, cornuti, biforcuti era ben poco simpatica e avrebbe richiesto ore di traduzione. Ma la signorina Anita aveva altre risorse. Ispirata senza saperlo da Franz Kafka, di cui ignorava tutto, lo fu altresì dal capitano Dreyfus, di cui non ignorava niente e che invece era morto da poco.